America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Our goal is to increase overall trade while reducing our trade deficit. We do not seek a trade war with anyone. Beh, avete sentito questo annuncio a sorpresa, e gli Stati Uniti, in qualche modo, gli Stati Uniti di Trump, sono abilissimi nel rilanciare. Wilbur Ross, il segretario al commercio, ha annunciato che gli Stati Uniti possono essere interessati a riprendere il negoziato sul TTIP. Ecco, questa è una cosa molto importante, perché significa chiudere con la tesi del rapporto bilaterale che gli Stati Uniti volevano avere con ogni paese e aprire invece all'idea del multilateralismo. Vedremo quale sarà la risposta europea, perché ricordiamocelo, dall'Europa sono arrivati molti attacchi agli Stati Uniti di Trump, a Trump stesso, che aveva criticato la Germania perché aveva un surplus commerciale e così via, così via. Qui però si apre un'altra finestra piuttosto importante che in qualche modo ridimensiona anche quello che è stato lo strappo con Berlino. Del resto il portavoce stesso di Trump ha detto: ma noi con Berlino andiamo assolutamente d'accordo, il presidente e la Merkel sono amicissimi, e lo stesso si è detto dalla Germania. Berlino ha cercato di gettare acqua sul fuoco sulle tensioni emerse qualche giorno fa. Tra l'altro, sempre sulla questione tensioni Stati Uniti-Europa, il New York Times ha gettato un petardo sempre nello stesso contesto mediatico. E cioè che gli Stati Uniti di Trump si interessano molto poco dell'Italia e dunque, non interessandosi dell'Italia, hanno creato uno spazio per la Russia che ne ha approfittato e che ha come obiettivo quello di sostituirsi nel rapporto privilegiato all'America. E io qui mi aggiungo al coro e dico che in questo caso un po' di fake news le fa il New York Times, che non me lo sarei aspettato, devo dire, perché è un articolo questo davvero molto, molto fuorviante. Il titolo è: con l'Italia non più nell'interesse degli Stati Uniti, diciamo nel rapporto centrale con gli Stati Uniti, la Russia si dà un gran da fare per colmare quel vuoto. E poi l'articolo di Jason Horowitz, che è il corrispondente dall'Italia del New York Times, si elencano una serie di cose, di nuovo fattualmente poco corrette. Cioè, per esempio, non c'è ancora l'ambasciatore a Roma, l'America non se ne occupa, ma è normale che non ci sia l'ambasciatore. Ci sono sempre dei tempi tecnici che hanno un periodo di vuoto. E poi si dice: ma molti italiani sono favorevoli a eliminare le sanzioni. È vero, ci sono molti industriali che sono favorevoli a eliminare le sanzioni perché pensano che non li aiutano dal punto di vista del lavoro, ma questo non significa che il governo italiano o l'Italia sia favorevole all'eliminazione delle sanzioni. Io vorrei raddrizzare un pochino questa storia, vorrei cercare di capire che cosa è successo. Io ho con me ai microfoni di America 24 Roberto Dalimonte, che è editorialista del Sole 24 Ore e docente di scienze politiche alla LUIS e si occupa in particolare di sistema politico italiano. Buongiorno Roberto, mi senti? Sì, buongiorno. Ecco Roberto, scusa, ho parlato troppo io, a questo punto cedo il microfono a te, cosa ne pensi? Penso che anch'io sono rimasto molto perplesso, perché in realtà i fatti che tu stesso hai citato sono veritieri, ma messi così insieme danno un'idea del rapporto tra l'Italia e la Russia che non è verosimile. Cioè, è certo che la Russia stia cercando di conquistare influenza in Italia, così come in Francia e in altri paesi europei, nel tentativo di indebolire la costruzione dell'Unione Europea, la forza dell'Unione Europea, che è tutto l'interesse della Russia, non avere un'Unione Europea forte ai suoi confini. Però dichiarare l'Italia come un anello debole di questa manovra di influenza russa in Europa, insomma, mi sembra molto molto spinta. Ecco, no, infatti questo è il punto, proprio quello che dice, cioè che è vero che ci sono molti movimenti populisti europei che simpatizzano più con Putin che con Trump, ma non riguarda l'Italia. C'è però in effetti una situazione politica, tu te ne stai occupando in questi giorni sul Sole 24 Ore, lo stai scrivendo non soltanto per i nostri lettori ma per l'Italia. Ecco, è vero che c'è un sistema comunque politico debole. Ecco, questo è il punto, Mario, questo è veramente il punto che può favorire un allargamento dell'influenza russa in Italia, cioè il fatto che siamo un paese debole. E purtroppo, visti i recenti avvenimenti che riguardano il governo Renzi e la bocciatura del referendum costituzionale, siamo entrati in una fase di estrema fragilità. Ed è questa fragilità che è il vero problema per noi ovviamente, ma anche per l'Europa. Questo favorisce disegni di destabilizzazione. E dunque il consiglio qual è? Di muoversi rapidamente verso un sistema elettorale trasparente che possa consentire la governabilità, perché il problema è quello alla fine. Il problema è quello, però non sono ottimista perché in questo momento non ci sono le condizioni per fare quello che andrebbe fatto. Ed Renzi ha accettato un accordo con Berlusconi su un sistema elettorale tedesco che funziona bene in Germania ma non funzionerà bene da noi, e quindi prevedo che insomma una fase di grande volatilità e instabilità, purtroppo. Ecco, la Germania, tu hai accennato alla Germania. Beh, sì. La Germania in qualche modo è emersa in un modo, secondo me, molto abile, molto geniale da questo confronto a distanza fra la Merkel e Trump. Perché? Perché è riuscita a far dimenticare il suo surplus commerciale. Cioè, improvvisamente il surplus commerciale, che è un oggetto di discordia, e obiettivamente la Germania è colpevole, perché quello lo è, di avere un surplus commerciale che arriva all'8% contro le regole, contro l'etica europea, in realtà dice, ma come, vedete, Trump mi attacca su questo, dunque voi paesi europei dovete essere uniti con me. E i paesi europei si sono adeguati. Ecco, abbiamo una Merkel, secondo te, che sta emergendo come grande stratega della prossima Europa, ora che anche la Gran Bretagna è fuori? Ma non c'è dubbio che la Merkel, anche per la sua permanenza al potere, l'esperienza che ha accumulato, si sta dimostrando una grande leader politica, molto probabilmente rivincerà le prossime elezioni. La Merkel, come hai detto tu, sta facendo un'opera di distrazione di massa, con riferimento naturalmente al surplus, al problema del surplus, che è un problema serio, perché anche quella è una violazione delle regole che stanno tanto a cuore ai tedeschi. Quindi sono d'accordo con te. Ti conto anche che ormai la Francia non riesce più ad esercitare, ora vedremo con Macron, non riesce più ad esercitare quel ruolo di guida politica che ha svolto nei primi decenni della costruzione europea, no? Quando c'era una divisione di lavori tra la Germania che si concentrava sull'economia, la guida economica dell'Europa, e la Francia che era la guida politica. Oggi invece mi sembra ormai chiaro che guida politica e guida economica coincidono a Berlino. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Mario24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Roberto Dalimonte, editorialista del Sole 24 Ore, docente alla LUISS di Scienze Politiche, è sempre qui con me, microfono America 24. Roberto, cosa vogliamo proporre in questa atmosfera così un po' di tensione transatlantica ai nostri ascoltatori? Che canzone ti viene in mente? Magari la canzone dei Beatles, Back in the USSR. Azzeccatissima! Speriamo, tra l'altro, di Don't Go Back to the USSR, perché io credo che Putin ha proprio in mente quello. Anche Putin, come la Merkel, sono due grandi geni della politica. Dei Beatles, Back to the USSR! Flew in from Miami Beach, BUAC. Didn't get to bed last night. On the way to paperback was on my knee. Man, I had a dreadful flight. I'm back in the USSR. In the USSR. Been away so long I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Delivering girls really knocked me out. They leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. And Georgia's always on my mind. In the USSR. Well, the delivering girls really knocked me out. Leave the West behind. And Moscow girls make me sing and shout. And Georgia's always over my, my, my, my, my, my, my, my. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.